da quando ci siamo trasferiti in vicolo Bolognetti come primo punto, diciamo che tutta la composizione che anima quegli spazi è cambiata rispetto alla caserma Masini e abbiamo un surplus, abbiamo molti studenti. Tra questi spicca la presenza del gruppo Promete, no? Quel collettivo di studenti di medicina con i quali fin dal primo momento abbiamo visto che c'erano degli spazi dentro alle stanze di vicolo Bolognetti nei quali era possibile fare questa cosa. In secondo luogo, sicuramente per noi attivisti di Rabat TPO è stato l'aver preso parte al progetto di Mediterranea, no? Perché una volta che salvi, porti in salvo queste persone, riesci a farle sbarcare in Italia, ci viene naturale, no? Chiederci: è ora, che vita aspetta queste persone in Italia? In un'Italia, diciamo, dove pochi mesi fa si è varato un decreto legge che punta ad escludere queste persone da qualsiasi accesso ai servizi minimi di base, tra cui la sanità, ce ne è naturale, no? Cercare di capire come intervenire anche sotto questo aspetto. Infatti voi scrivete che la salute non è solo assenza di malattia, ma anche autodeterminazione, inclusione, accoglienza e condivisione. Assolutamente, come è nelle nostre corde da sempre, cerchiamo, no, di porre un po' un freno all'avanzata, no, di queste politiche escludenti. Lo facciamo come sempre partendo da dati molto pratici. Finché potevamo avevamo in piedi accoglienza degna che appunto metteva un tetto sopra la testa di queste persone. Oggi alla BA forniamo altri tipi di servizi, no, tra virgolette, cioè facciamo la scuola di italiano, abbiamo lo sportello migranti, proviamo a fare in modo che questi ragazzi, queste ragazze prendano la patente, c'è il discorso di la bimbi e adesso vogliamo provare a intervenire anche sul discorso, no, salute, benessere e anche informazione, no, accesso a diritti che ancora queste persone hanno ma che spesso non sanno. Concreto, qual è l'obiettivo di questo progetto? Ma guarda, abbiamo intenzione di procedere un po' per step, all'inizio autoformarci, appunto informarci noi per primi, perché non sappiamo ancora bene, no, quelle che sono un po' quello che ancora il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ad alcune fasce di persone, ma che spesso non viene appunto erogato come servizio per semplice volontà di alcuni medici o altri professionisti. Quindi per prima cosa formarci noi, poi andare a informare, di indagare, partendo appunto in primis dalle persone che attraversano la BA, quali sono i bisogni reali di questi soggetti con cui entriamo in contatto ogni giorno. E poi ovviamente in terzo luogo, sì, arrivare a fornire prestazioni e servizi a livello sanitario. Insomma, un percorso passo dopo passo, e il primo sarà martedì prossimo. Il primo martedì prossimo, con una chiamata pubblica a discutere, no, di cosa si può fare in questa città, dove già ci sono parecchi soggetti attivi in questo campo, infatti sono caldamente invitati, molti li abbiamo già contattati, e poi a tutti quei professionisti che appunto si siano intenzionati a darci una mano, che anche loro non si arrendano al clima d'odio che pervade l'Italia oggi.